If you use the verb parlare in connection with a language, note that you don't need the article before the word for that language. For example, parla inglese? Sì, parlo inglese. E lei parla inglese? No, non parlo inglese. But with other verbs, you do need the article. Le piace l'italiano? Sì, mi piace l'italiano. E l'inglese? Le piace anche l'inglese? Sì, mi piace anche l'inglese.